Dario Argento. Dario Argento. Bello, boh, bello, non c'è. Dario Argento, mi piace molto. Non c'è mai stato Dario Argento nei nostri studi, è vero? È medico, profondo rosso. Sono un grande fan. Dei vellutori, ho visti tutti. Mi piace i film di thriller. Quelli prima, i primi. I primi, sono... i primi. Poi cominciando troppo nel strano, sì. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in centro storico a Montevarchi, in via Isidoro. Fumino, torniamo ad ospitare un ex calciatore che ha fatto la storia dell'Aquila, che ha vinto dei campionati, ha passato molti anni a Montevarchi ed è ancora ovviamente ricordato tra i leggendari che hanno vestito la maglia rossoblu. Raccontaci chi è. È proprio così, Julian, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World anche da parte mia. Stasera abbiamo appunto un calciatore che non solo ha vinto i campionati ma ha vinto pure quella famosissima coppa unica per ora, e noi ci auguriamo che ne seguiranno anche altre, perché mai dire mai, e quindi per il momento comunque è fra i presenti in quella mitica squadra che ha portato una coppa nazionale a Montevarchi. Però prima di presentarvelo mi libero di tutto questo rosso che c'è intorno a noi stasera. Siamo in un profondo rosso perché il regista di stasera è niente poco di meno che Dario Argento. Quindi grazie maestro per essere intervenuto ai nostri studi per fare da regista a questa puntata. Ma bando alle ciance, presentiamo e diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Tonino Stilo. Buonasera a tutti e vi ringrazio per questa ospitalità, sono venuto molto volentieri anche perché mi fa tornare in mente tanti bei ricordi, e alla radio se c'è stato anche i miei primi, diciamo così, contatti quando ero giovane, perciò mi fa tornare volentieri ai primi ricordi. Benissimo Tonino, un piacere. Quindi come prima domanda ti chiederei di raccontarci le origini della tua passione per il calcio e com'è che poi sei arrivato in Val d'Arno e poi in Val d'Arno sei rimasto. Il percorso è stato un pochino, diciamo così, già segnato, cioè nel senso, io giocavo in una squadra di Roma che si chiamava Lomi Calcio, che era la terza squadra di Roma insieme alla Lodigiani dopo la Roma e la Lazio. E lì andai nella rappresentativa del Lazio, dove vennero a vedermi nella rappresentativa sia la San Giovannese che il Montevarchi, sia Barzotti, a quel tempo direttore sportivo della San Giovannese, che Icchienni, che a quel tempo era direttore sportivo del Montevarchi. Mi scelse e mi fecero fare un provino alla San Giovannese, dove c'era Galeone, e Galeone disse che potevo stare in questa categoria e da lì cominciò. E come ci dicevi prima in fase di preparazione della puntata, dopo San Giovanni tornasti o quantomeno andasti a Lucca, se non erro, sì, per poi ritornare a Montevarchi. Perfetto. Ed il primo anno a Montevarchi è stato l'anno mitico della doppietta, no? Perfetto. Diciamo che andai via da San Giovanni dopo una retrocessione. Andai, diciamo, in prestito gratuito per farmi vedere come una prova, e lì invece il direttore sportivo, che era Magrini a quel tempo, disse: questo ragazzo lo teniamo, però a quel punto là la San Giovannese voleva, diciamo sì, economicamente qualcosa, e il direttore sportivo della Lucchese a quel punto là disse: no, prima me l'avete mandato gratis, ora volete soldi, lo rimandiamo indietro. E poi sono andato a Montevarchi. A Montevarchi sono venuto nell'annata, diciamo, più propizia per me, perché innanzitutto ho giocato in una grande squadra e poi ho incontrato dei calciatori veri, dei calciatori che venivano dalla Serie A, come Bruno Beatrice, Taddei che veniva dal Torino, Giacinti. Insomma, lì ho imparato che guardando i calciatori professionisti veri potevo fare anche carriera anch'io, a quel punto avevo 20 anni, ancora ero giovane, e devo dire che questi due signori, tra virgolette, che uno non c'è più, che mi dispiace da morire, Bruno Beatrice, era quello che mi spronava più di tutti, era quello che ha creduto in me fin dall'inizio, e questo è stato il bello. Parlando di trofei vinti, campionati, un calciatore, probabilmente io mi immagino che qualsiasi cosa vinca, da una singola partita a un trofeo, sia al settimo cielo. Ma tu che li hai vinti nello stesso anno entrambi, il campionato e la coppa, potessi fare un patto con il diavolo per avere indietro un'altra di queste emozioni, sceglieresti un altro campionato o un'altra coppa? Bella domanda, io sceglierei un'altra coppa. Allora, per due motivi, eh. Innanzitutto quell'anno la coppa, pensa che abbiamo fatto 17 partite per arrivare in finale. Abbiamo incontrato squadre di tutta Italia, dall'Alta Italia fino alla Sardegna. Perciò è stato bellissimo l'impronta che abbiamo dato all'Italia. Cioè abbiamo fatto tutte le squadre di tutta Italia. Fino a che in finale abbiamo incontrato una squadra di Suzzara che come noi aveva fatto lo stesso percorso. Perciò la logica è stata bella perché tu ti sei confrontato con tutte le squadre d'Italia, dall'Angorese al Seregno, dalla Batti Pagliese alla Vigor Lamezia, abbiamo girato tutta Italia e per questo ti sei sentito veramente campione d'Italia, perché abbiamo battuto quasi tutte le regioni. È stato un momento, diciamo così, indelebile per me, perché sentirmi campione d'Italia significa essere veramente i migliori. E questo vale per tutti, non solo per me. Citando un calciatore scomparso di cui abbiamo appena accennato il nome, ovvero Bruno Beatrice, che effetto ti faceva a te essere in una squadra in Serie D che però aveva nel proprio organico calciatori di Serie A? Che tipo di skill, per dirla con un termine inglese, di qualità vi portavano in maniera superiore, immagino, rispetto a quello che mediamente avevate vissuto? Perfetto, la logica era questa, che loro, avendo vissuto in prima persona queste categorie, trasmettevano a noi giovani il percorso da fare per diventare come loro. E la logica era questa, cioè nel senso non arrendersi mai. E l'aneddoto che vi dicevo prima di Vigor Lamezia, al primo tempo si pareggiava 0-0 e io presi una bella pedata e mi stavo mettendo in angolino, perché Tapia le pedate lì era all'ordine del giorno. Entrava in spogliatoio Bruno Beatrice e mi disse queste testuali parole, mi disse: ascolta, se te cominci a saltare perché hai paura, quando ritorniamo all'allenamento te le do io. A quel punto là feci gol, perciò avevo più paura di lui all'allenamento che di loro. Ecco cosa trasmettevano sicurezza in un giovane, cosa che ora io non penso. I vecchi ora pensano più a se stessi, prima pensavano che il giovane potesse emergere con la loro esperienza, ora il vecchio pensa a se stesso, penso. E tra l'altro mi ritorna in mente le parole che usò anche Tiziano Casucci rispetto a Bruno Beatrice, definendolo uno da figurine, perché lui si ricordava appunto di aver attaccato da bambino, da giovane, le figurine con Bruno Beatrice in Serie A, e poi rammentava in trasmissione l'emozione di rivederselo nello spogliatoio al primo allenamento. A parte i ricordi ovvi di personalità del genere, qual è il momento di quella stagione che ti è rimasto più impresso, a parte anche forse il gol in conseguenza alle minacce di Beatrice? Qual è il tuo momento topico di quell'annata? Diciamo che il momento più bello è stato quando abbiamo passato il penultimo passaggio di Coppa Italia, perché avevamo perso a Batti Paglia 3-0 e si vinse in casa 7-2. La logica di dimostrare che eravamo fatti per vincere quella coppa ce l'hanno dimostrata vecchi, perché i primi a credere in una rimonta così sono stati loro, perché loro trasmettevano questo, che nulla è perso. E giocare con quelle persone lì che hanno vissuto prima di te certe esperienze danno a te la sensazione che ci si possa fare, e questa è la cosa più bella per un calciatore giovane: vedere trasmesso certe cose che te ancora non sai. E quanto questa esperienza poi ti è servita nel proseguo anche della tua carriera a Montevarchi, perché comunque hai vinto altro qui a Montevarchi, hai giocato altre partite importanti? Aver trasmesso quello, io poi nell'ambito della mia carriera, anche se ci sono stati momenti brutti come la retrocessione che abbiamo avuto e quello spareggio con Civitavecchia per 4-0, ma dentro di me c'era sempre la sensazione che ci potesse essere sempre una rivincita, perché avevamo già avuto quelle esperienze, perché con quella gente lì, con quei personaggi lì con cui avevo giocato, avevano dimostrato che anche nei momenti difficili si può essere anche calciatori qua. Attraverso le esperienze, i ricordi dei calciatori o ex calciatori come te in questo caso, o anche solo di semplici tifosi, la nostra trasmissione si prende la briga di indagare la Montevarchinità e di andarne alla ricerca. Allora, analizzando la stagione vittoriosa, anzi superlativa, appunto, della doppietta campionato e coppa, con la stagione dell'88 in cui tu fosti comunque protagonista in campo con una signora squadra, perché mi ricordo molto bene i calciatori di quell'epoca ed era una signora squadra con lo spareggio vittorioso di Empoli contro la Massese. Ma i Montevarchini, sì, dal tuo punto di vista, per quello che ti ricordi, come hanno accolto le due vittorie, i tre successi, nell'84 c'era più attaccamento rispetto all'88 o ancora in quegli anni era più o meno uguale? Ma questa è una bella domanda, però dice, cioè, come sensazione, come ho io, cioè, una Coppa Italia, io quando si fece lo spareggio con Suzzara a Chioggia, secondo me la sensazione di una novità così importante, dato che il campionato l'avevano già vinto, perché il Montevarchi l'aveva già vinto negli anni precedenti, era più portata alla novità, cioè, nel senso, nessuno si aspettava che quell'anno fossimo arrivati così lontano. E essendoci arrivati, era una novità anche per i tifosi di Montevarchi. E mi ricordo benissimo a Chioggia c'era una manifestazione d'affetto nei nostri confronti impagabile, una manifestazione di gioia dopo la vittoria impagabile, cioè, nel senso, quelle sono sensazioni che un calciatore vive sulla propria pelle, proprio perché te le trasmette le persone che ti vedono, che ti guardano, che se no nessuno sarebbe propenso a vincere a petto. Queste sono sensazioni che ti dà la gente. Te li saresti mai aspettati, migliaia di Montevarchini al seguito in quel famoso spareggio di Empoli? Sinceramente sì, io ho sempre creduto che Montevarchi avesse questa grande forza con questi tifosi che amavano quei tempi là, l'amavano veramente la maglia rosso-blu. E devo dire che quell'anno lì, se ci scappava il campionato, era solo colpa nostra, perché eravamo stati quasi sempre primi, arrivare in fondo in tre ci era dispiaciuto anche a noi. Soltanto che, devo dire, con la forza del pubblico e, diciamo, sì, con una grande squadra, perché anche quell'anno lì avevamo una grande squadra, siamo riusciti in quel sogno che era quello di far vedere che anche noi potevamo stare in quella categoria, perché la C1, ricordiamoci, in quei tempi, io la paragono a ora alla Serie B, perché c'era Venezia, Triestina, Reggiana, cioè queste erano squadre che ora non ci si pensa più, però quegli anni lì c'era il Chievo Verona, c'era gente, c'era squadre che ora sono serie A. Cioè, io i miei ricordi vanno lì per l'appunto per le squadre che ci sono ora in altre categorie. Te pensa che in Serie D, quando eravamo in interregionale, se giocavo con l'Entella, e ora in Serie B, perciò la logica, qualcosa cambia poi nel meccanismo delle società, però i ricordi nostri sono indelebili. A me veniva da riflettere su una cosa che hai detto quando parlavi appunto degli insegnamenti che ti avevano dato questi compagni di maggiore esperienza, il fatto che comunque anche nei momenti bui c'è sempre la possibilità di una rivincita nel calcio. Ora io la vorrei attualizzare, non so quanto hai seguito da spettatore, tifoso, gli ultimi 10-15 anni del Montevarchi, e quindi tutto il periodo della decadenza e poi questo periodo di rinascita recente in cui appunto con una nuova società, con i Montevarchini che ritornano in società, si ritorna a respirare aria di entusiasmo e in conseguenza anche, dipende, insomma, una roba doppia, probabilmente si è tornati a vincere. Te come la vedi, come l'hai vissuta questa esperienza, questo periodo e questo cambiamento? La logica del fallimento, quando c'è stato, è stato un trauma anche per me, perché vedere il Montevarchi in seconda categoria è un dispiacere anche per noi che ci abbiamo giocato e che ci abbiamo dato tanto per questa maglia. Però c'è un momento nella vita in cui tu ti rendi conto che non se ne può far meno. Per il semplice fatto non se ne può far meno, perché non ci sono più i presupposti, perché mancano certi tipi di personaggi, perché il Losi, il Farolfi, questi personaggi che hanno fatto la storia dei Montevarchi non si ripetono, non esistono più, come non esiste a San Giovanni Casprini, non esistono più, perché sono loro che trascinavano ad essere protagonisti. È la società in prima persona che fa il calciatore, non è il calciatore che fa la società, è diverso. Cioè, io mi sono trovato direttore a San Giovanni, è diverso da fare una società, fare una squadra o essere società. Essere società è la cosa più importante. la squadra viene di conseguenza. La società è fatta da persone che hanno non solo disponibilità, ricordate, perché non la fanno solo, la fanno la volontà di essere Montevarchini o San Giovannese. E parlando di due personaggi leggendari di Montevarchi come Vasco Farolfi e Lezio Losi, te che li hai vissuti, perché comunque eri qui quando loro erano ai vertici societari, quanto si sentiva la loro presenza e come? Allora, la loro presenza si sentiva, io ti parlo in assoluto di Lezio Losi, perché innanzitutto con me è stato più che un babbo, è stata una persona che mi aiutava nei momenti difficili, è stata una persona a cui devo tantissimo, però si sentivano perché erano sempre lì, nei momenti belli e nei momenti brutti. Nei momenti belli sapevano tirarti su, nei momenti brutti sapevano tirarti su, nei momenti belli sapevano farti stare coi piedi per terra, erano sempre, sempre, sempre presenti, non mancavano mai, in trasferta, in casa. Io ho sempre visto il personaggio Lezio Losi o Vasco Farolfi come immagine della società Montevarchi. Non c'era altro per me, insomma, ci poteva essere 2000 direttori sportivi o 2000 direttori tecnici, per me il presidente era ciò che contava, era l'immagine della società. Attraversando il tempo e lo spazio, appunto, dal momento in cui tu venisti a Montevarchi, dove il presidente era Vestrolli, ma c'era comunque Losi, c'erano insomma Parigi, l'entourage sì, montevarchino dell'epoca, abbiamo attraversato la parte buia, diciamo, della storia, quella fatta di nani e ballerini, detta un po' così già altre volte in altre puntate, per tornare appunto al periodo vincente, quello recente, guarda caso con la società ancora in mano ai Montevarchini, o quantomeno ad un gruppo di imprenditori che sono della nostra zona. Secondo te, quanto è importante che la società, appunto in funzione dell'importanza che tu dai alla società nelle tue parole precedenti, che questa sia appunto del posto di dove è la squadra? Ci tengo a precisare che innanzitutto il presidente, lavoriamo insieme, perciò immagino con Angelo Olivi siamo amicissimi. La logica è che prendere un presidente di Montevarchi e costruire una società con i Montevarchini fa sì che il pubblico si senta partecipe della società e sia un fatto unico, che non uno che viene da Roma o da Milano, perché la logica è Montevarchi, non è né Roma né Milano. Il brutto è che ora, al di là di tutto, ci vogliono soldi, tanto ci vogliono soldi per fare calcio, non stiamo qui tanto a parlare. E la logica è come si fa a trovare soldi? La logica non è trovare soldi, è investire nei giovani ora. E questo è il grande passo che sta facendo il Montevarchi. Questo è quello che secondo me darà al Montevarchi un vantaggio primario, avendo giovani di prospettiva importante. Mentre invece, visto che comunque sei rimasto nel mondo del calcio, come ci dicevi, sei stato direttore tecnico, hai provato a fare l'allenatore, come ti immagineresti Tonino Stilo fare i primi passi da calciatore oggi, e che tipo di carriera nel calcio di oggi avresti avuto? Io tante volte penso, quando parlo, che forse ora sarei in Serie A. Forse, Dico forse perché il mondo del calcio è cambiato, ora c'è la convinzione che si arrivi a giocare per altre, diciamo così, per altre strade, non diciamo altro, no? Mentre per me conta sempre esclusivamente la tecnica. È quello che faccio ora, insegnando tecnica ai ragazzi, perché se non ci si crede in quello che si fa, è finita. Allora, la logica, secondo me, è che non si arriva con le scorciatoie, perché tanto quando arrivi lì in cima non te perdona nessuno. E secondo me la tecnica è l'unico vanto che può avere un calciatore ora. Il resto lo sanno fare tutti, cioè la corsa, l'agonismo, ma se uno non ha tecnica non arriva, oggi non arriva, perché ne ho visti tanti che hanno altri doti, ma senza tecnica non si arriva. E questo insegna ragazzi. Tornando al leitmotiv dei nostri ospiti, non sei il primo e probabilmente non sarai l'ultimo, che è evidentemente questo qua siamo in radio, ma insomma queste cose non si vedono occhio ma si sentono a orecchio, non sei nato in Valdarno, c'hai ancora il tuo accento romano bello marcato, è molto bello tra l'altro dal mio punto di vista, ma il ragazzo parti da Roma per venire a giocare a San Giovanni Valdarno, quindi in Valdarno, qui accanto, vieni da una grande città, dalla Roma degli anni 70, la Roma di Alberto Sordi, di Fellini, insomma quella grande Roma, e vieni qui in Valdarno, dove oggi sì, è praticamente San Giovanni e Montevarchi sono per effetto del cemento una grande costruzione ormai senza soluzione di continuità, ma all'epoca c'erano i campi, c'era la campagna, era tutto un altro mondo. E poi ci sei rimasto, comunque ci hai trovato moglie e hai deciso di vivere qua. Ma com'è che è scattata in te, appunto, al di là degli affetti che probabilmente verso la persona, insomma, che ti ha sposato, però ecco, cosa si prova da una grande città a ritrovarsi catapultati in un posto di campagna come era il Valdarno allora? Ma la cosa più curiosa che mi viene in mente è che quando arrivai nel 1980, vabbè, andai a ridire tutto, poi verso ottobre-novembre io ero abituato a uscire in maglina, a maglia corta a Roma e calzoncini, e andavo a scuola, a quei tempi lì andavo a ragioneria a San Giovanni. Faceva un freddo, non si vedeva niente, c'era una nebbia, dissi ma qui dove siamo? E volevo tornare a Roma, perché non ero abituato, dissi ma qui è... E poi invece la vita ha fatto sì che poi li conoscessi, mia moglie e tutto il resto. Però l'impatto con la campagna, tra virgolette, è stato un impatto bello, perché cioè, venivo da una realtà dove Roma non si poteva vivere, dove smog, dove delinquenza... Ero arrivato nel Valdarno dove tenevano le chiavi nelle porte, per me era, disse ma dove sono venuto? Nel regno dei balocchi. E disse la prima cosa che disse a mia moglie, disse ma voi tenete, sì, perché se no ci si scorda, dice poi come si fa a entrare? Ma qui dentro, se eri a Roma le tenevi, e disse vai le chiavi fuori, ti avevano portato anche mobili. Mi fai tornare in mente un aneddoto di Giorgio Carozzo, che è tuo compaesano, no, o concittadino insomma, e mi immagino che sarete ancora in contatto, sì, sì. Che ci ha raccontato di una sua telefonata ai suoi amici di Roma, dove dicevano, lo sapete che qui si tiene la macchina aperta e non mi rubano l'auto radio. Ecco, ora però appunto colleghiamoci a Garozzo, quindi a un tuo oltre che amico e concittadino, compagno di squadra in quell'anno famoso, siccome probabilmente per vincere così tanto in uno stesso anno non c'è solo la bravura dei giocatori, non c'è solo la bravura della società, ma c'è anche una colla che c'è nella squadra, nella società, che fa delle persone oltre che colleghi, amici. Sì. Vi sentite ancora con quei calciatori lì? Vi vedete ancora? Perché comunque ancora tanti di loro vivono in Valdarno. Ecco, c'è questo rituale di ritrovarsi e magari commemorare le vittorie? Con alcuni siamo rimasti in più contatto, come con Giorgio Carozzo, perché essendo di Roma, io ho fatto il testimone di nozze e tutto, siamo rimasti un pochino più legati. Però diciamo, in quell'anno là siamo tutti rimasti amici. Ma non solo, perché volevo fare un appunto proprio in questo. Carlo Garoni, che era l'allenatore quell'anno, è stato più che un allenatore, un filosofo di calcio, io lo chiamo, perché era una persona che riusciva a legare più personaggi, perché voi fate conto, un giocatore che ha giocato in Serie A con uno che aveva fatto un campionato di Serie C, oppure uno che era venuto dal Velletri, uno che era venuto da una promozione, cioè era difficile pensare a un gruppo che si potesse unire con calciatori di Serie A. E questo è stato bravo, oltre che la società, anche il mister Carlo Garoni, a farci sentire un gruppo vero, un gruppo che poteva dare grandi soddisfazioni come ha dato, perché poi se non sei unito in campo penso si possa essere più bravi, ma ci siamo passati poi, perché nell'anno della retrocessione, quando avevano fatto una squadra di campioni tra virgolette, che siamo retrocessi al famoso spareggio col Civitavecchia 4-0, avevamo una squadra che avevano giocato tutti in Serie C e in Serie B e siamo retrocessi, significa che l'amalgama è più importante del giocatore, perché chi ti amalgama ha la consapevolezza che sì, c'hai giocatori bravi, ma se poi ognuno pensa per sé è finita. E lì quell'anno ognuno pensava per sé. ognuno pensava a un certo punto, sì, io tiro dietro la gamba perché se mi faccio male poi non trovo squadra e via. Cosa che non era nell'indole nostra, venendo da quel famoso campionato vinto dove tutti ci si aiutavano. E anche quello vuole dire maturare, perché tu vedi e tu devi scegliere dopo una strada, no? Tu puoi fare carriera e ti puoi tenere bello da una parte o tu puoi fare squadra. Lì quando cominci a essere giocatore bisogna che tu decida dopo, perché poi non è semplice tirare il mulino da una parte sola e pensare di fare la squadra. Insomma è difficile, l'ho visto e l'ho vissuto anche da allenatore. E comunque prendendo proprio ad esempio l'anno della retrocessione, perché comunque te Tonino hai visto e ci hai raccontato prima cosa significa vincere un trofeo importante, un campionato importante a Montevarchi a livello di calore, però hai visto anche l'altro lato della medaglia, cioè, e quindi a livello emozionale cosa hai provato e come ha reagito Montevarchi l'anno della retrocessione con una squadra che comunque si presentava ai blocchi di partenza come, non voglio dire favorita, sì, ma sì, comunque favorita. Positivamente costruita, ecco. Il dispiacere più grande è vedere 2-3 mila persone che tra virgolette lì ci rendevamo meno conto a Terni quanti ce n'erano, ma ce n'erano tanti di Montevarchi. Sentirmi applaudito perché avevo dato il massimo era un segno che stavo crescendo per quello che volevo fare. Volevo essere l'uomo squadra, perché se no dopo un po' dovevo diventare capitano. Sono diventato capitano dopo. La logica era questa, come ti dicevo prima. Tu devi scindere. Vuoi essere parte di una squadra o parte di te stesso e fare un percorso tuo personale. E questa è la cosa più difficile da fare per un calciatore. A un certo punto, scegliere se pensare a se stesso o pensare alla squadra. Questo a un certo punto della vita tu devi scegliere, perché quando cominci a essere a una certa età tu pensi a te, dici io sì, che me ne frega della squadra, io se non mi faccio male stanno il prossimo anno c'è un altro anno di contratto. E invece tante volte se tu dici ma se io penso ai ragazzi posso vincere un altro campionato, forse è meglio. Però secondo la tua esperienza è più segnante ricevere degli applausi dopo una sconfitta oppure essere osannato dopo una grande vittoria? No, è più bello, è stato più bello per me, ma ti dirò di più, non solo quella quando sono retrocesso con la Terni, sentirmi applaudito e incitato, ma anche quando abbiamo perso 3-0 in casa con l'Arezzo, che io tornai qui a Arezzo, che avevamo perso, la gente mi applaudeva. Che sapeva che avevo dato tutto per Montevarchi. E quello è il bello del tifoso che agisce sul calciatore. Non è quello quando si vince, è quando si perde. Quando si perde, sapere che tu hai dato tutto, perché lo spettatore ti fa un applauso, è quella la cosa più bella secondo me. Quando si vince siamo tutti bravi. Una cosa appunto, restando nel tema dei tifosi, che un calciatore vive è il calore che la tifoseria riesce a trasmettere a chi è in campo durante una partita. Lo stadio di Montevarchi, per come sono fatti i montevarchini, per quanti montevarchini vanno allo stadio, seppur oggi dopo i campionati comunque di basse categorie, seppur vinti, i numeri sono diversi rispetto a quelli di quando giocavi tu, però comunque la passione è ancora viva, la fiamma è ancora accesa. Se lo stadio di Montevarchi avesse avuto nel tempo, nella storia, una struttura differente, con magari gli spettatori più sopra il campo, più vicini, come potrebbe essere Genova ad esempio, potrebbe essere stato di aiuto per poter vincere ancora un po' di più. Sì, direi che questa è la sensazione dal campo che si prova meglio, cioè nel senso il calore del pubblico più è vicino e più è bello, però devo dire che il tifoso del Montevarchi, io me lo ricordo bene quando in casa l'ultima partita con la Carrarese e c'era 6.000 persone e ce n'erano 2.000 da Carrara, ma ce n'erano 4.000 di Montevarchi, cioè nel senso il calore lo trasmette il pubblico nel momento in cui tu dai al pubblico qualcosa, cioè se no il pubblico non ti trasmette nulla. Il pubblico noi se trasmetteva la voglia di vincere, e quello loro trasmettevano a noi, che in qualsiasi modo, anche se si perdeva, avevamo dato tutto. E la logica era quella, il bello dei tifosi del Montevarchi, che capivano che quell'anno avevamo dato tutto. E la logica forse più bella era quello. E ti dirò di più, anche l'anno in cui non si è fatto grandi risultati, ma 2.000-2.500 persone c'era sempre, cioè non è che Montevarchi c'era 500 persone. Io ho fatto la C2, siamo arrivati a metà classifica quando hanno esonerato Melani, che poi venne i Balleri, c'era 2.000-2.500-2.800, cioè noi pochi spettatori quegli anni là io non ho visti pochi. Io ho visto l'anno della C1, quando in casa non si è mai perso, si è fatto 10 vittorie e 7 pareggi, sempre 4.000-5.000 persone, insomma. Io ho vissuto forse gli anni più belli di Montevarchi, quegli anni lì erano gli anni più belli, di calore del pubblico. Però ti ripeto, c'era sempre una struttura che ti permetteva a te calciatore di fare la vita da calciatore. Questa era la logica. Calciatore, tifosi. Se i tifosi si sentivano parte di una squadra e di un progetto, di una società importante. Questo era il bello del Montevarchi quell'anno, che anche gli spettatori si sentivano parte del progetto del Montevarchi, e quello rendeva loro forti e noi forti. E Tonino, diciamo che la tua carriera è stata, come te dicevi precedentemente, caratterizzata da un grande lavoro tecnico, da un grande impegno mentale, da una grande passione e anche dalla ricerca di migliorarsi, ma indubbiamente alla base di tutto ci deve essere, o nel tuo caso c'era, quello che viene definito il talento, quel qualcosa che dà la forza a chi lo detiene di poter lavorare verso il proprio miglioramento della propria inclinazione anche in una maniera infaticabile, diciamo, comunque continua, no? A me mi viene in mente, io sono un tifoso di pallacanestro NBA e mi ricordo Kobe Bryant diceva, lui si allenava alle 4, alle 5 la mattina perché diceva io non posso pensare di dormire mentre magari qualche altro mio avversario si sta allenando, allora se qualche altro mio avversario si allenasse alle 7 io vado ad allenarmi alle 6. Te come lo definiresti il talento? Bella, è una bella domanda questa. Allora, io penso questo, no? Scindiamo il fatto di ora al talento di quando c'ero io. Cioè, nel senso, io ho giocato con giocatori di talento vero. Uno su tutti dell'anno, Francesco Dell'Anno, che può andare della Lazio, che può andare all'Inter e tutto. La logica del talento si vede nel momento in cui tu vedi che in campo fa delle cose che nessuno sa fare, che si allena come nessuno si allena, che fa delle cose in allenamento come in altri non sanno fare. Perciò il talento è già puro, è qualcosa che è innato in ognuno di noi. Però devo dire che oltre il talento, oltre questo, ci vuole una grande passione e una grande voglia di migliorarsi, perché anche lui era a fine allenamento a battere punizioni e stava mezz'ora a battere punizioni, batteva i calci d'angolo. Era sempre un continuo migliorarsi in tutti i momenti. Quello che invece vedo ora è che i ragazzi di oggi non credono a niente, purtroppo la vita è cambiata. Loro credono che arrivare sia una questione di scappatoie. Ah, se io sono amico di quello, forse arrivo così, arrivo prima, forse se vado là quello mi vede. Non è così, no. La logica ad arrivare, come dicevo prima, al di là del sacrificio, che è un sacrificio enorme, io lo dico in prima persona, perché un ragazzo giovane a 16 anni si deve privare di andare in discoteca, di andare a letto la sera, presto, perché sennò poi non corri. Cioè, sacrifici che un ragazzo di 16 anni ora non è che gli si fanno fa bene, ma si fanno e solo esclusivamente chi ha voglia di arrivare. Chi non ha voglia di arrivare queste cose le crede superate, perché crede che si arrivi con mezzi non leciti, come la fatica. La fatica ora i ragazzi la vedono come un sacrificio, io la fatica la vedevo come un arrivo, una cosa che dove io dovevo correre più di un altro, io dovevo fare 100 scatti e quell'altro ne doveva fare 60, perché io gli ultimi 40 scatti bisognava che facessi far gol a qualcuno. Ora se tu dici a un ragazzo giovane fa 100 scatti, ti dico ascolti mister, perché ci va lei a farli. La logica è che ora si crede tutto dovuto, senza avere niente di raggiungibile, perché pensano che ci siano le scappatoie, cosa che invece quando arrivi a certi livelli le scappatoie tu le vedi da te e sono finite, perché quando arrivi alle soglie delle prime squadre non ci arriva nessuno. quando si sono creduti bravi, non si arriva. Stiamo andando lentamente verso il termine di questa puntata, quindi per gli ascoltatori di Radio Big World che non sono di Montevarchi e che non hanno vissuto nella storia il tuo percorso appunto con la nostra squadra, in quale ruolo giocavi precisamente e qual è il gol che più ti ricordi o la partita che più ti ricordi giocata con la maglia rossoblù? Allora, diciamo che sono stati anni stupendi, poi il ricordo più bello che ho del gol più bello che secondo me ho fatto è in casa con la Lucchese l'anno della C1, di testa in tuffo, in casa il Brilli Peri. Quello è l'anno più bello secondo me della C1. E in quale ruolo tu giocavi? Vedi, ora ci so, io giocavo alla destra, no? Ora si chiama esterno d'attacco, e quei tempi là era più semplice, alla destra, terzino destra, io giocavo alla destra. Era uno che faceva fare gol, e quell'anno lì, in serie, primo anno di interregionale con Garozzo, che ci si intendeva in maniera occhi chiusi, ero quello che gli ha fatto fare tanti gol. E concludendo, l'ultima domanda, quella di rito, l'altra di rito che solitamente facciamo agli ex calciatori: avevi un rituale scaramantico? Perché comunque abbiamo scoperto e capito che nel calcio e tra i calciatori la scaramanzia è all'ordine del giorno, no? Ce ne hanno raccontate di tutte. Te avevi un rituale scaramantico particolare o quantomeno ne hai visti di bizzarri tra i tuoi compagni? Ma diciamo che io avevo il mio rito scaramantico, perché io prima della partita prendevo sempre le solite cose, perché quando avevo fatto una buona gara, una bella partita, avevo fatto gol e dicevo che ho mangiato prima della partita, ecco, era quello il mio coso scaramantico, perché pensavo che avendo mangiato il riso in bianco col prosciutto e mozzarella invece che prosciutto e insalata avesse dato quella cosa in più che a me mi rimaneva. Per me era quello il mio gesto scaramantico, mangiare tutte le cose che avevo mangiato quando avevo giocato bene. Bene Todino, siamo davvero arrivati alla conclusione, è arrivato il momento dei saluti, saluto calorosamente gli ascoltatori di Radio Big World, grazie per essere stati all'ascolto anche di questa puntata, ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Io ringrazio il nostro regista di stasera, Dario Argento, e poi ringrazio a te Tonino, perché comunque... Io ringrazio voi di questa bellissima serata, di questa intervista, e ringrazio tutti i tifosi che mi hanno sempre voluto bene. Grazie Tonino, anche da parte mia, grazie di nuovo agli ascoltatori di Radio Big World, vediamo appuntamento alla prossima puntata con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, come sempre sulle frequenze di Radio Big World, grazie! Andavo a Foggia, vincevo 3 campionati di vita. Cazzo. Andavo in Serie A dopo Zeman e la vita mi cambia. Sono stati 3 anni e sono fallito. Poi c'era il presidentissimo, era Lezio Losina, che mi aveva preso proprio come un figlio. Ho detto, se tornassi indietro sceglierei di andare a vicinare Lezio a Vicenza. Vicenza delle Carbonari, che era il presidente, mi chiamò con Fogli. Era C1 in Vicenza. C1, però che si cambiano subito. Ma l'allenatore non sono capace, non ho le qualità, bisogna essere diplomatici, devo fare i giocatori ci dice un cazzo. Ho le viste, che se non hanno voglia, io lo voglia, insomma. Per essere intervenuto ai nostri studi. Grazie. Ma diciamo. No, che... no, te la fai. Ah. Sì, perché lui è fuori campo, è regista. È Dario Argento. Ma Tonino all'anagrafe. Tonino. Quindi nella carta di Tonino Stiro. Tonino Stiro. Pensate. Sì, davvero. Io ho sempre pensato fosse il nomignolo. Ma si chiamerà Antonio. Quindi venivi tipo 2,10 e tu ti chiamai Tonino e te li 2,10. Oramai era quello. chi può arrivare in prima squadra, la prima cosa che deve mettersi in testa è che si comporta in una certa maniera. Parlando con ragazzi, non credevano più in questo, cioè credevano, ma hai visto, c'è il babbo di quello da sordi, ha visto il babbo di quello e fa lo sponsor, ha visto il babbo di quello da 500 euro il presidente. Allora la logica era diventata differente, si arriva dando qualcosa, non è così. Perché poi ragazzi, non sono mica cretini, se te sei bravo e lui non è bravo, però lui gioca perché il suo babbo da sordi, e quello che non è che è più bravo dice, oh, ah mister, ma come mai gioca lui e io gioco? Perché il suo babbo è più bello di me, il suo babbo c'ha sordi. Se tu pensi che le primavere i genitori pagano 60.000 euro per farli giocare, ma chi c'è? Bravo! Ma chi ci arriva allora lì? Chi ci arriva? Chi ci arriva? Chi c'ha i soldi? Allora chi c'ha volontà e c'ha voglia non ci arriva, io non ci arrivo, io non ci sarei mai arrivato. Squadre vanno a quegli anni. Bravo, perché sono meglio di loro, perché non sono buono a niente. Perché non sono buono a niente. Qual è la logica? Ve l'ho detto, è o tu trovi una persona o più persone che ci tengono a una società di calcio e tengono ai valori come teneva una volta il Losi e il Farolfi, ai valori, perché loro i valori li facevano prima del calciatore, perché loro se te eri un coglione ti dicevano vattene via da questa squadra, vattene via da questa società, levati dalle palle. Io l'ho visto i due giocatori farli levare ai coglioni, che facevano fenomeni, che volevano fare i Balotelli, Venne Alessio con la sua cordialità, visto com'era un uomo, e se voi in questa società non ci potete stare, vino dalla serie B, voi mi sciupate la società. Vala di ora, vai! Spendendo, perché hanno speso, ricordo, tanti soldi per arrivare alla seconda fino alla serie D, Come i Della Valle, uguale, sappiano i Della Valle, se non c'è i Della Valle, vedete chi ci sta a Firenze a tirare fuori i soldi. È come a Roma, se non c'è l'americano, io dico sempre, c'ho i nipoti a Roma e ci vanno. Io, se non c'è l'americano, noi stiamo sempre, si va a raccattare soldi con i scudi al Colosseo. Sì. È bello, questo è bello, vedi che te voglio dire. Anche se te ritrovi in prima squadra, ti dicono un'esagerazione, ma 4-5 sono venuti dal settore giovanile, tu c'hai in mezza squadra, tu sai la mentalità della società, tu sai il percorso che ti ha fatto fare la società, il bene che tu vuoi alla società, poi è impagabile. Mentre noi, all'anni nostri, che era più bravo, giocava e rimaneva, come sono rimasto io, sono rimasto 7 anni, mi facevano un contratto il primo anno di 7 anni. Immagini che bellezza. Oggi non esiste. No, oggi non esiste mia. Ma io la cosa più bella, quando mi chiamò Renato Piazzesi, questa mi ricordo benissimo, mi si al tavolo così, lui era di là, mi disse, mi guardò con l'occhiale, mi raggiù, mi disse, ti ho preparato il contratto. Va bene. La persona che fa la società fa la differenza. Lì c'erano quei due personaggi che, a parte con me, ma facevano la differenza con tutti, perché se volevano un giocatore arrivavano con la valigetta, con soldi, se volevano stilo aprivano la valigetta quell'anno, e ora la valigetta con le carte stracci, diciamo la via. Bella, questa intervista mi è piaciuta, bellissima, anzi, rivengo volentieri se mi rivolete.